Ingrid. Posò i piedi nudi sul parquet, si aggiustò la camicia da notte e si alzò. Tommy dormiva come un sasso al suo fianco. A passi lenti e silenziosi, uscì dalla camera e scese al piano di sotto. Prese il giaccone di Tommy e il kit da cucito e si chiuse in bagno. Strappò in fretta i punti che aveva dato la sera prima e tirò fuori il registratore. La luce verde lampeggiava, era ancora in funzione. Lo spense con un sospiro. Reprimendo l'impulso di ascoltare immediatamente, ricucì la fodera e rimise a posto il giaccone. Poi infilò il registratore nella tasca della propria giacca, andò in cucina e beve un bicchiere d'acqua. Qualche ora più tardi, Tommy avrebbe partecipato al notiziario del mattino e Lovisa sarebbe stata a giocare da un'amica. Allora lei avrebbe avuto il tempo di ascoltare. Mentre posava la testa sul cuscino, si ricordò di quanto le costasse ascoltare registrazioni del genere quando lavorava come giornalista. Adesso non vedeva l'ora.